America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. My administration will work every day to ensure that our economy is a place where women can work, succeed and thrive like never before. That includes fighting to make sure that all mothers and all families have access to affordable childcare. Avete sentito, Donald Trump ieri ha avuto un incontro con un movimento femminile per cercare di rilanciare il suo rapporto con le donne, che come sappiamo è stato a volte teso, per non dire tumultuoso. Il presidente cerca così di distrarre l'attenzione dai temi centrali politici che continuano a dominare il dibattito nella capitale, e cioè cosa succederà nel post sconfitta del voto per la riforma sanitaria. Il presidente ha firmato anche degli ordini esecutivi nei giorni scorsi, uno per eliminare una serie di regole ambientali che, secondo l'amministrazione Trump, frenavano le possibilità delle aziende di poter dare lavoro. Ma uno degli obiettivi era anche quello di favorire la produzione del carbone. Lo ricordo, i minatori del carbone delle montagne dell'Appalachi sono stati fra i suoi più ferventi sostenitori, perché lui prometteva loro di eliminare appunto regole contro l'inquinamento atmosferico e di restituire loro il posto di lavoro. Purtroppo non è così, perché il prezzo del carbone è comunque fuori mercato e dunque c'è un po' di illusione, eppure Donald Trump è andato avanti lo stesso. Qual è il paradosso? Che in questo momento la Cina diventa il leader mondiale per le riforme ambientali, per migliorare le condizioni climatiche. Un'altra notizia che riguarda il presidente ha a che fare con la figlia Ivanka. He was an incredible parent and is an incredible parent, but I think I appreciate it much more today as a parent of three young children. I think when I was a teenager I thought parenting just is something that happens. Ivanka è la figlia preferita. Le affida qualunque responsabilità e devo dire che la signora Ivanka Kushner, sposata appunto Kushner, è una donna con la testa sulle spalle, è intelligente, è pronta, è preparata, riesce a dialogare col padre in modo tale da evitare che possa prendere magari delle pieghe pericolose per se stesso e per il paese, e dunque, come si dice, è un asset, è un patrimonio per Donald Trump e in fondo per l'amministrazione. Che è successo? Che ha deciso di uscire da questa posizione vaga in cui si trovava e di farsi assumere come impiegato statale. Quindi da oggi la signora Ivanka Trump, miliardaria, figlia del presidente degli Stati Uniti, diventa impiegato statale per poter lavorare alla Casa Bianca col padre in qualità appunto di impiegata dipendente. La trovo una cosa naturalmente affascinante. Lei voleva evitare di essere assunta, in realtà per svolgere un ruolo doveva avere un qualche inquadramento, e dunque anche in America, il paese della libertà, beh, ha dovuto farsi assumere. Senate investigation now hits very close to home at the White House. Yeah, very close to home. The New York Times is reporting that senators want to question President Trump's son-in-law and trusted advisor Jared Kushner. Ecco, ma il tema centrale della giornata resta quello della Russia. La commissione intelligence del Senato, avete sentito il newscast che vi ho fatto ascoltare, interrogherà 20 persone sul Russia Gate. Questo nel contesto dell'indagine sulle interferenze che la Russia avrebbe cercato di fare o avrebbe addirittura fatto nelle elezioni presidenziali del 2016. Ecco, la cosa interessante è che fra i nomi delle persone che saranno oggetto di questa inchiesta della Commissione dell'Intelligence del Senato c'è anche il consigliere e genero di Donald Trump, Jared Kushner, il marito appunto di Ivanka, di cui vi parlavo poco fa. Non solo, c'è anche Paul Manafort. Paul Manafort era stato il capo della campagna elettorale di Donald Trump e dovette poi andarsene, lasciando il posto a Steve Bannon, proprio su uno scandalo che riguardava certi suoi rapporti con la Russia. I have nothing to do with Russia. Haven't made a phone call to Russia in years. Don't speak to people from Russia. Not that I wouldn't, I just have nobody to speak to. Ecco, Donald Trump che afferma senza mezzi termini di non aver mai fatto affari con la Russia e di non avere debiti con Mosca. Ecco, la realtà è che molti giornalisti, questo ve l'ho anticipato parecchio tempo fa, e molti giornali ritengono il contrario. Per esempio, USA Today ha fatto un'inchiesta in cui ricostruisce come Donald Trump, per vendere alcune delle sue attività immobiliari, si sia appoggiato a miliardari e oligarchi legati alla Russia. E nel momento in cui sei un oligarca e sei di origine russa, le probabilità che il tuo rapporto con Vladimir Putin sia molto stretto sono molto elevate. Il contesto d'insieme però va un pochino al di là dell'aspetto finanziario. Lo ricordo, uno dei sospetti per esempio sul fatto che Donald Trump non vuole rilasciare le sue dichiarazioni fiscali perché all'interno di queste dichiarazioni fiscali risultano dei prestiti obbligazionari o comunque dei debiti nei confronti di controparti russe. Non è chiaro se siano delle banche o se siano invece dei privati. Ma il discorso russo è più ampio. Perché? Ma perché per esempio Manafort, presidente della campagna di Trump, era stato fino a poco prima un consulente degli oppositori al regime democratico in Ucraina, e cioè era legato dai russi che volevano chiuderla con il regime democratico attuale e restaurare un'elite di potere che fosse vicina a Mosca. Tra parentesi, la moglie di Manafort è ucraina, quindi lui evidentemente aveva dei rapporti molto forti anche per ragioni familiari. Comunque Manafort se n'è andato. A quel punto chi arriva al posto di Manafort? Arriva Steven Bannon, che è considerato un po' l'anima nera dell'amministrazione, anche lui molto favorevole a un recupero del rapporto con Mosca e con la Russia. Bannon favorisce la nomina a capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Michael Flynn. Michael Flynn ha degli incontri con l'ambasciatore russo, cerca di impostare un contesto geopolitico che punta a che cosa? Beh, alla risoluzione di tutti i problemi, e cioè la Russia farà un piccolo passo indietro sull'Ucraina, si farà un referendum magari per concedere che la Crimea diventi davvero russa. A quel punto si recupera il rapporto della Russia nel contesto del G7 e dei gruppi multilaterali e si normalizza la situazione eliminando le sanzioni. Ecco, questo disegno è un disegno che ha preoccupato enormemente, per esempio, Angela Merkel. E si è scoperto poi che anche Mike Flynn aveva dei rapporti stretti con la Russia. Pensate, dopo le elezioni è andato a Mosca per ricevere un premio dalla televisione di propaganda russa ed era seduto al tavolo con Vladimir Putin. Sulla base di quello e sulla base di altri rapporti che lui ha avuto con l'ambasciatore russo e che non erano consentiti nel momento in cui non era ancora consigliere per la sicurezza nazionale, Flynn ha dovuto dare le dimissioni. Ecco, a questo punto, come vedete, il quadro è complesso, anche perché l'FBI, la CIA ed altre agenzie federali governative stanno investigando per dare concretezza alle altre accuse che riguardano la Russia, cioè all'interferenza nel processo elettorale americano per favorire Donald Trump e danneggiare Hillary Clinton, producendo delle rivelazioni che oggettivamente hanno in effetti danneggiato la candidata democratica. Insomma, il quadro è complicato, spero di non essere stato confuso, però è un quadro di fondo di cui bisogna tener conto e sul quale credo occorre essere informati, perché continuerà a passare davanti ai nostri occhi per le prossime settimane ed i prossimi mesi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americo24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, torniamo su From Russia With Love, nella interpretazione di Matt Monroe. From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. Da New York è tutto, Mario Pratiro vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.